Friuli nel mondo, 180esima trasmissione dedicata agli emigrati, canzoni friulane d'oggi. Siamo lieti di offrirvi, cari amici radioascoltatori, un secondo mazzetto di canzoni friulane eseguite in occasione dell'ottavo Festival di Pradamano con l'orchestra di Gianni Safred. Sono nuove canzoni, entrate nel repertorio canoro dell'attualità e delle predilezioni affettive del Friuli. Ascoltate pertanto di Lelo Chanton e Giovanni Langone, Ponte di Stele, nell'interpretazione di Adriano Degano. Tu sclarisci, tu sei come una tazza di bimbon, no sere ti è cialate scugnuditi, che dome tu sei la mia passione. Quando io ti cialì, moro di me, no puoi esplui bevi, ma sai parte. To c'è esi di chi indena un sob in serio magari un sa di quei tan ben amor tu sei la luz dal scuro amor e io non vignarà che io ti ai te mandio starie viva l'amore, la vita interie e bambe in blu. Tu sei sintagno cor ponte di stelle, tu sponzi sculto voli verdolin. Non hai mai patito un'ore così biele, si vio che ieri va della me fine. Quando io ti cialì, moro di me, no puoi più bevi, ma sai pazze, mi toce iesi, di chi indena, un zob in serio, magari un santo. L'oscuro amor e io non vignarà che io ti ai te mandio starie viva l'amor la vita interie e bambe in flor. Ed ora Curi innemorat di Lucia Scozziero e Pina Carminati, canta Adriano Degano. Tanta dal sulla colline, ovvio sotto il mio paese, usi planta al mies dal ver, alle omble di paradis. trente chasis la glesiute fazoles di tiare nere e un lampion tal mies de place cal simpie quanche essere. Di Lelo Chanton e Giovanni Langone, interpretata da Memo Remigi. As lusini o sin che vai unanime sui cres la canasis listelis o vio digno ben che si va un di mio ben arriverai ti darai il mare alle grand ma io sai più grand alle il cil e l'amor il bene che io giro lo Achala, nos volti te gnot, arriva. Arriverai grand alelci è l'amore. Ed infine Lagrimi stai voi di Pietro Someda De Marco e Ottavio Paroni, canta Barbara Lori. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.